sì, magari prima spiego un po' l'opera in grandi linee e poi sì, i compagni sì. continuano con le altre parti del diciamo dell'opuscolo. E, il gasdotto TAP è praticamente il gasdotto è un progetto che parte dal confine greco-turco, passa l'Albania, il Mar Adriatico e arriva a San Foca, a una ventina di chilometri da Lecce. E fanno parte della joint venture, fanno parte 7 multinazionali tra cui British Petroleum, Total, E.ON, che fornisce anche energia elettrica ai Feltrinelli Point tra le varie cose, e Socar eccetera. E praticamente i lavori inizieranno nel 2015, ma in Italia nel 2016. E diciamo che noi più quando abbiamo voluto affrontare la tematica del gasdotto ci siamo posti più il problema delle conseguenze economico-sociali piuttosto di quelle ambientali, insomma. Sebbene sappiamo che comunque ci sarà un tunnel che dall'approdo della spiaggia perforerà la costa da 1,5 km, arriverà a 800 metri dalla costa. E poi ci sono anche altre questioni per quanto riguarda il fondale marino, dove comunque appoggeranno quindi i tubi, e ovviamente il fondale marino, non essendo ovviamente omogeneo, metteranno cemento, ghiaia per far sì che diventi omogeneo e possano appoggiare i tubi del gasdotto. Poi arriverà dopo la costa, arriverà a 8 km nel territorio di Melendugno, per poi allacciarsi alla rete nazionale vicino Brindisi, e quindi lì si ricollegherà alla rete nazionale. E diciamo che noi, per come stavo dicendo prima, ci siamo più soffermati su altre problematiche, no? Quindi non prettamente quella ambientale o dei tecnicismi, proprio perché vogliamo portare la lotta su un altro fronte, che è quello comunque della critica al sistema, che poi ovviamente va anche a danneggiare l'ambiente, però è anche il disgregare le comunità, prendere delle risorse dall'Azerbaigian, perché il gasdotto va dall'Azerbaigian fino all'Italia, però una parte che è dall'Azerbaigian arriva alla Turchia esiste già, il TAP sarebbe quello dalla Grecia all'Italia. Quindi ovviamente siamo posti questioni che vanno al di là della problematica ecologista, ma cerca di fare una critica a 360 gradi, mettendo anche in discussione ovviamente le istituzioni e il gioco dei media, come si protrae nel territorio, insomma.